la situazione adesso è tornata sotto controllo. Sotto controllo. Sono le 23 e 06 e 06 un'altra Radio Roma e qui girano tutti con pezzi di carta con su scritto cosa e non cosa dire, cosa e non cosa dire. Buon ascolto. Un saluto speciale per Capoccione, per Capoccione, per Capoccione, per Capoccione, di una buona notte a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, Radio Roma. Che facciamo? Dobbiamo continuare? Continuare? Io l'unico pezzo di carta che ho in mano l'ho appena acceso. Vabbè, comunque adesso lancio un bel pezzo. A caso. A caso. Un'altra Radio Roma. blogspot.com. Rimanete con noi. A volte ti senti quel vuoto, quel magone allo stomaco, come un pugno. Vorresti reagire ma non hai la forza né la voglia. Sono pensieri come pezzi di ricordi che non scordi, forti come suoni ripetuti per timpani sordi. Sono ricordi, pensieri e sogni che lasciano quel vuoto nel posto di chi non c'è più, ma che ci protegge dall'assù. Lost and Corax, a voi. Ho bagagli pronti, ricordi, sbadigli se non dormi e convogli, con fogli, con scritto non ritorni, t'accorgi, non t'appoggi agli stessi raggi, gli stessi complessi dei viaggi. Quando parti la stazione buia sembra grigia, hai l'occhiaia mattutina, una grossa valigia e di già cominci a voltarti che pare che tutta la città sia alla ferma a guardarti. Agli altri prometti e sicuro non li scordi, ma passeranno giorni, ti verranno ricordi negli occhi, un domani senza sbocchi ma tanti piani intatti, compatti, e non sai quanti sforzi. Può darsi che tornerai di nuovo e tutto quel che hai lo vedrai solo grazie a quelle foto, ormai con quel poco che rimane del colore che ritrae quel Natale insieme con il primo amore. Un errore, mandi a puttane tutto quel giorno, riguardi quello stronzo con il cappello storto e sei tu senza più neanche un sogno, e mo come segno di quel giorno è rimasto l'adios. Non può pensare che da oggi potrà sognare a bracci, risolvere gli impicci, portare meno stracci, dopo anni quella forza viene meno, sempre meno, ma non scordi la corsa di quel treno. Sono ricordi, pensieri e sogni che lasciano quel vuoto giù, quel posto di chi non c'è più. Sono ricordi, rumori sordi e segni che tu sei qui con me e mi proteggi dall'assù. E questa va a due fratelli che non ci sono più, due artisti, due cuori, due pagliadali, Anthony a.k.a. Artù e Mirko a.k.a. Most. Se pensieri come pezzi di ricordi che non scordi, forti come suoni ripetuti per timpani sordi. Certe cose sono senza spiegazione, la cerchi e non la trovi ma non cambi direzione. Sono sempre meglio a lasciarci un segno indelebile come un muro colorato nell'inferno. Questa è dedicata a voi ora state lassù, questo pensiero è da noi nella merda qui giù. Anthony, detto ho compreso il peso di un sorriso, fratellone il tuo nome per sempre sul mio cuore inciso. Sei una bomba atomica, parla al presente perché lo so che ti infastidirebbe il pensarti assente. I tuoi affetti, i tuoi progetti, i tuoi disegni perfetti, senza difetti nel sentiero che ci insegni. Proteggimi armato di scudo e spray, lo sai, sempre qui sarai, non scordarlo mai. A fianco a te so che è il mio grande fratellino Mirchetto, rimo il mio affetto e non sono di certo il primo. Occhio orientale sulle spalle, un grande paio d'ali, muso duro contro i mani, un grande cuore senza eguali. Nella testa dei tuoi amici fisso c'è il tuo viso, il tuo sorriso, il tuo vivere deciso. Ci stavi dentro di brutto, sentivo che questa cultura doppia H per te era tutto, per sempre la tua immagine impressa tra le pagine di te che scrive te la vita al centro e mai al margine. Proteggete se potete questa gente che ora sede, che se chiudo gli occhi a letto dentro un sogno vi vede. Sono ricordi, pensieri e sogni che lasciano quel vuoto giù, quel posto di chi non c'è più. Sono ricordi, rumori sordi e segni che tu sei qui con me e mi proteggi dall'assù. Sono ricordi, pensieri e sogni che lasciano quel vuoto giù, quel posto di chi non c'è più. Sono ricordi, rumori sordi e segni che tu sei qui con me e mi proteggi dall'lassù. Los Cancorax sono due ventenni romani, cresciuti fra Portuense e Monteverde. Ma non fatevi condizionare dall'età. Scrivono dei testi mai banali, le basi sono curate da Brasca, geniali. Hanno molti progetti e non scherzano affatto. I prossimi tre brani sono Antibiotico, Cronaca Nera e La Voce Scomoda. Comoda. Fit con Suarez e Dr. Dennis. Perché lo faccio, non sai perché lo spingo. Sai che non sto giocando come in una sala bingo. Sai che dove attingo non c'è più un cazzo da fare. Ma non lascio stare, adesso provami a fermare. Giuro che non so se è la mia cura. So solo che da quando mi ci faccio non serve una puntura. La mia musica cattura belle storie e vita dura. Ma comunque a testa alta e non mi basta ancora. Perché questa è roba mia, nessuno me la porta via. Altro che medicina, è un'intera farmacia. Di notte non mi passa, rimane quella fissa. Mi sveglio il pomeriggio ancora sotto quella cassa e poi mi lascia il pugno stretto ed un impegno. Smetterei soltanto dopo aver lasciato il segno. Non voglio niente, né un contratto, un assegno. Ma datemene un paio, forse sarebbe meglio. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei e serve a me come antibiotico nei testi. Malato terminale a mano quando sale. Il ritmo con il ritmo del mio sangue che si eguale. Medicina antistaminica, elisir prezioso. Oso quando doso ma so che so pericoloso. La passione che mi dà la forza per spaccare tutto. Questo è il frutto di ogni pezzo già distrutto. Pensa quanto sarei poco senza questo immenso gioco che mi cura le ferite e disinfetta come il fuoco. Se non ci sei nel mezzo non mi puoi comprendere. Se non ci sei nel mezzo non mi puoi offendere. Obiettivi pochi, prospettive quasi zero. Non lo faccio per i soldi e qui sono sincero. Lasciare insegne insieme al mio compare. Ringraziare amici veri come il DJ sulla strumentale. Far sentire il suono che il mio nome rappresenta. Daniele che è Cora, se la gente spenta si fomenta. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Resta top e sfanculo tutto come la Polcano. Per me il micro è sacro e santo come il sacro graal. Solitario come il verme, miglio come il verde. L'importante non è vince ma è fondamentale manco perde. Sostenuto in un fottuto minuto che scruto. Ti sputo e resti muto se sostieni lo statuto. Porto il nastro suono fuori Roma a Milano Apollo. Io il compare col DJ, la somma è tritolo. Parli di me ma non ascolti una parola. La mia musica mi salva e poi parla da sola. Ma è dura da accettare se la posta in gioco è alta. È un mare dove puoi notare se ti regge a galla qui. Nel far west sopra i beat c'è la guerra da infami. Ci siamo noi, non siamo né cowboy né indiani e sì. Proprio vuoi tirarci in mezzo. Tutti pronti a smontarci ma chissà che al primo pezzo. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Io sì ci casco ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando, è la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Notte fonda, partuto colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. È notte fonda, parto un colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. Al verano non ci sta più spazio. Ci stanno più cadaveri che terra fertile in tutto quanto il Lazio. La gente ha perso la ragione ed il buonsenso. Vedo la gente morta come il film Sesto Senso. E penso alla storia che tutti i giorni è nera, alle stragi che tempestano i TG ogni sera, ai politici col naso bianco che decidono le leggi e la bamba che c'hanno sotto banco. Sono stanco di pensare che il mio vicino è pazzo, che una bomba per dispetto me sfonda il palazzo. Se più l'aereo trema ad ogni tipo che sospetto, e se vedo un poliziotto sudo sempre mi grilletto. Tutti i film più strani vengono da storie vere, i ragazzi più tranquilli sparano su scuole intere. Il vaso è traboccato senza l'ultima goccia, ma il mondo è sotto shock solo se Britney si fa la boccia. È notte fonda, parto un colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. È notte fonda, parto un colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. Qui colpi alla schiena, sì, tutti al riparo, ma tu sei al sicuro ed io ci vedo meno chiaro. È un altro amaro giorno, una lama dall'inferno. Colpisce a tradimento e ferisce sullo sterno. La polizia che ammazza e foglia dentro la piazza. Un kamikaze spaccia, terrore e morte a Gaza. Nella stanza la sequenza ancora dura. Un'altra tortura e pensa a quella gente che non c'ha paura. Dici che c'è di male, il male è radicale, uguale a quello delle pagine del tuo giornale. Ora che va di moda parlare della coca, allora parla anche di me, perché il rap è la mia droga e non c'ho la presunzione che vi appartiene. Cercate amore ma c'è chi non vi vuole bene. Cercate scucco, io cerco loop nella bufera. Qui fuori è sera e la cronaca si fa nera. È notte fonda, parto un colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. È notte fonda, parto un colpo nel silenzio. Fuori freddo, dentro scalda come l'assenzio. Il fango è denso, prova tu a trovarci un senso. È vera, cronaca nera e succede adesso. E non c'è via d'uscita, la mia testa è esaurita. Questa roba oscena ti punge la vena con una matita. Ed ogni giorno, tutto il giorno si realizza. Quando l'ora è giunta e la punta ti si spezza, la cronaca non dà niente di buono. Confonde la mia mente che non sente, rispecchia ciò che sono. Qui dove il suono si fa sordo, c'è chi piange. Io non piango, non mi adatto, non mi abbatto, adesso mordo. Non scordo il passato che ritorna come lessi. Non scelgo una vita fatta di compromessi. Mi paro le spalle, tengo la guardia alta. Chi vince ribalta e chi perde già si asfalta. Il tempo va veloce e io zitto lo seguo. Io sento la tua voce ed il mio cane slego. Non nego che spesso il pensiero è reale. E confermo il mio odio per la polizia di Stato. Losk e Korax più, n'ha capito crew. Demi sul beat. Dal degrado, lo stato brado, di rado e vado, non cado. Sono un tornado di primo grado e vado avanti a testa alta tra gli schiavi, incubo degli ignavi, tempesta per le navi. Qui c'è troppo che non va o sono io che non funziono. Io sono solo un tuono di cui senti solo il suono. La voce scomoda, la sedia senza lo schienale. Ho un arsenale a strato, non la compro la vocale. Non tollero l'antagonismo, il bigottismo. Non tollero il razzismo, il comunismo ed il fascismo. I finti perbenisti, misti, tristi, pori cristi, misti tra rivisti, pisti e qualunquisti. Ce n'ho una perché ho ucciso mio fratello Artù, perché ancora omette verità sotto divise blu. Ce n'ho una per chi scappa e fa l'evaso. Ce n'ho una anche per te, ma adesso non mi sembra il caso. Toi, fai il serio, ti lascio di stucco. Noi, più Valerio, da Portuenza a Montecucco. Gente vera, frate, zero poser. Voi, la forza della petta, noi la spinta di un bulldozer. Schifati dallo schifo che c'è in giro, delusi dalla gente a cui dici io ti ammiro. Sotto tiro perché è una guerra quotidiana. S'allontana la speranza, qua non c'abbiamo Obama. questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma spinge veloce, feroce non dà pace. La voce scomoda ti scomoda, non ci dispiace. Questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma l'unica voce, se l'ultima traccia, se la sola voce che te lo dice in faccia. Sinceramente mi sono rotto il cazzo, vuole smette, ma stanotte non so bene cosa faccio. Mo manco mi salvo col questo, dico basta e non basta, e mo basta, è l'ultimo pezzo che caccio, stop. Ancora che ci credi, che credi a ciò che dico, in un minuto mi esprimo e tu muto, capito? Puoi darmi del fallito, ma me la leggo al dito, e non dico che con questo mi do solo per finito, uccido il mito, non credo che possa servirmi a molto te, ben servito pago il conto e via da qui dove non c'è king, perché sai che il vero king si incorona da sé, qui dove non passa la rima più malvagia, ma lascia il cervello che piaccia ed è un ultimo appello, scritto su carta, ma poco ci importa, bello, straccia. Se una faccia sconvolta non cambia espressione, mannaggia stavolta hai sbagliato cazzone. Mo giura che sta cultura cresce a dismisura, ma rimane sempre come merce pura. Mo che punto in alto, ma i piedi fermi a terra sull'asfalto di questa città, ogni giorno mangio merda e non cerco scuse. Le mie mani se prima le tendeva agli altri, ora rimangono chiuse. Questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma spinge veloce, feroce non dà pace. La voce scomoda ti scomoda, non ci dispiace. Questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma l'unica voce, se l'ultima traccia, se la sola voce che te lo dice in faccia. Porto un assaggio del disagio, porto linguaggio scomodo e cattivo presagio in ogni messaggio. Porto musica de strada, viaggio all'inferno di solo andata. Vuoi disagi? Cerca la prossima data. Nei paraggi, vieni in zona, circondato dai soliti personaggi. Niente G, stiamo a Roma, fuggi, fuggi via dalla mia voce. Fatti il segno della croce, cambia passo, ma io sono più veloce. Sono al di fuori dalla massa, suono fuori, passa odio, filtra l'odio in testa, fuori dalla cassa. Chiuso dentro la mia stanza, mar de testa con la vista che si abbassa e si alza l'ansia. Se certe volte non è male come sembra, certe volte invece vago nella nebbia, carico di rabbia, chiuso in gabbia senza via di fuga, l'amarezza che non credo esista, niente che mi illuda. Per questo me ne frego, se c'ho da dire qualcosa io la urlo e dopo non la nego. Under track studio e mi sfogo, io non prego, n'ha capito, nuoto nella merda finché non affogo. Questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma spinge veloce, feroce non dà pace. La voce scomoda ti scomoda, non ci dispiace. Questa è la voce, scomoda e non tace. Se questa è la voce che non piace, ma l'unica voce, se l'ultima traccia, se la sola voce che te lo dice in faccia. L'hip hop e l'R&B in quanto generi forti, potenti, ma allo stesso tempo capaci di racchiudere argomenti dolci e diversi, sono il veicolo giusto per giungere al cuore della gente e dei ragazzi. Sono mezzi molto potenti. Queste sono le parole di GMC. Ed ora, dal suo album, a modo mio, due tracce: Rap Magia e Respiro. vengo a dire situazioni giocano intorno al tuo avvenire ed è per questo che continuo a dire battere e non cercare di ritornare perché il mic non fa per te, yeah. Elementi che vedi per strada e siamo solo in venti, ma che danno molto, diventeremo in tanti, siamo occhi spenti, mostrati alle gente, lasciati in balia come capelli e quattro venti. Dai gatti, ritorneremo in tanti, zero cure, siamo compatti, non ti passate in lotti contorti, i miei pensieri contro i tuoi son botte a suon di rime, imprime un colpo alle vetrine del tuo show, pensavi forse un sasso, no, si chiama hip hop e al top della forma mi son trovato, quel che è già passato ormai è stato, sembra arrivato il momento di partire verso nuove prove, nuove sfide, ciò che dite non mi interessa perché so tutto da fare. Sento il tuo respiro su di me. con abbia, calmi tutti ovunque c'è rabbia, ogni giorno passa e non cambia, mentre l'aria che ci riscalda. Vorrei portarti dove c'è il sole, il Salento nasce dal mare, delle onde senti il rumore, mentre l'atmosfera ci assale. E altre due tracce rap hip hop da Sassari. Bye bye Redim, l'ultimo singolo della crew, per la verità molto reggae, e Figli. Loro sono ricatanti e si esibiranno il 29 maggio a Trinidad da Culto. Apriranno il concerto degli Africa Unite. La notte fiamme, fuori il polo, dentro caldo e palme. Tu bruci paglie e sconvolture, a me non manca niente se sono a tu per tu con le tue nature. Immagina la mia testa tra le tue di cosce, sudore e gemiti sfiorati da parole a bassa voce. Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie, e non ti mollo più. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie, e non ti stanchi più. Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie, e non ti mollo più. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie, e non ti stanchi più. Ora immagina che si resta uniti, che non mi svesta scontri tra i corpi coi vestiti zitti. Quando la lingua fa altro, poi logoroici, quando vogliamo là in alto. E qua non ci sono ansie, solo corpi che ansimano in strade di campagna soli. Neanche le stelle ci guardano e non mi perdo nei tuoi occhi, io ci perdo i sensi. Oggi vesto il tuo odore, domani forse il cuore me lo spezzi. In fondo è così che va, chiamarti amore senza dirti sei la mia metà. Parlarti ore e capirti a metà, viverti tutta per non goderti a metà. Yo! Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie, e non ti mollo più. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie, e non ti stanchi più. Se stiamo assieme ci sarà pure un motivo, un invito, sguardo complice, un abbraccio per tenerlo vivo. Questo fuoco che ci scalda sotto alle coperte scivola, con me ci intrufoliamo, seguo l'olfattivo. Anche nel buio riesco sempre a scovarti, sono pronto a incontrarti. Solo sesso, fare a meno del visivo, percezione sensoriale che mi manda in visibilio. Sono morsi da vampiro, sul tuo labbro goditivo voglio sentire ridere il sorriso stampato sul tuo viso. Sono attimi di paradiso. Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie, e non ti mollo più. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie, e non ti stanchi più. Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie, e non ti mollo più. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie, e non ti stanchi più. Scaldiamo i corpi e baci, avidi di follie. Uniamo i nostri bacini, soddisfo le tue fantasie. Thank you. siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un falso ideale, di un'era imperiale. Abbiamo gli occhi sporchi, un istinto animale. Non ci trovi a pregare, non ci trovi in chiesa, ma poi amiamo il Natale. Siamo figli della TV, plasmati dal plasma. Siamo tutti uguali tra gli alternativi. Siamo vittime tra coccole, la lobotomia, tra un'aritmia di dolce frottole. Siamo condannati noi su uno scivolo, cadiamo dolcemente sul patibolo. È una corsa sul miglio verde. Noi figli di vittorie abbiamo compassione, ma ripudiamo chi perde. Ci si perde nel riflusso, sesso più lusso. Figli della droga e della brama di successo. Aspro è il sapore del sangue di quest'era. Figli delle balle di quell'11 settembre. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu. Figli di un mondo reso inabitabile dall'ansia di cambiarlo per ridurre la propria immagine. Labile mi sale quando vedo inabile la gente di sto mondo di cambiare queste regole stupide. Persone in cerca di un inutile, vittoria sul più debole che prega per resistere. È facile giocare con povere anime, la vera forza sta dentro al cuore di chi è al margine. E allora io non ho più niente che sia mio, condannato all'oblio senza più un dio. Resto in piedi ma barcollo, non mollo da questa società presa al collo come un pollo. Resta appiccicata la mia terra e la guerra che distrugge le speranze di chi vive per la pace. Se c'è via di fuga per me, non è in questo mondo ma è dentro me. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Siamo figli di un'era da show. Sembra tutto perfetto però, qua non basta che preghi, lotti e credi, che sei solo tu che stai in piedi. Di questo mondo figli, siamo figli senza niente, figli incontro al niente, figli senza niente, figli ricantanti qua, volume 2 2006. Siamo figli. E adesso Train dalla Calabria. Train dalla secondo Calabria. Me è un rap molto curioso. Dall'album Non mi chiamare, Sciacalli e subito dopo in un sogno. Tutto questo è avvenuto un'altra radio. Sciacalli, sembrano amici ma sono dei serpenti. Ti riempono di abbracci e di falsi complimenti. E poi ti rubano l'anima e tutti i chiarimenti. Sciacalli, spesso sono furbi, non sono come quelli. Si fanno gli amici solo perché offrono dei contanti. Ma ti strappano il cuore e stanno sempre attenti agli altri. I sciacalli aspettano che la preda sia ferita e non hanno le palle di venire avanti sfida. E prima che sia servita e prima che sia guarita vogliono loro finire la partita. È per questo che ti stanno sempre accanto. Sono quelli che ti capiscono, quelli che ti aiutano nel pianto. Sono sparsi dappertutto e non li vedi. Si fingono un'altra persona e tu ingenuamente ci credi. È per questo che stai sempre insieme a loro. Hanno tempo per calcolare le tue mosse e lo fanno sempre con piacere loro. E così credi di essere uno di quelli. Dietro a quella faccia si nascondono degli sciacalli. Ho vissuto molto tempo vicino a loro. Sembrano della famiglia invece sono sciacalli. Sembrano amici ma sono dei serpenti. Ti riempono di abbracci e di falsi complimenti. E poi ti rubano l'anima e tutti i chiarimenti. Sciacalli, spesso sono furbi, non sono come quelli. Si fanno gli amici solo perché offrono dei contanti. Ma ti strappano il cuore e stanno sempre attenti agli altri. Sono fratelli di sangue per DNA, invece hanno coltelli nascosti anche i migliori fra. E per fare soldi non hai bisogno del loro permesso, e per farne molti è già aperto il tuo ingresso. I sciacalli ti danno poco e non vogliono niente in cambio, poi quando ho bisogno mettono la tua vita in ballo. È per questo che devi stare sempre attento, cambiano sempre faccia al loro piacimento. Perché sono sciacalli, sì, gente senza cuore, non hanno sentimenti, non sentono dolore, e dietro a quel sorriso si nasconde un mitragliatore pronto a sparare se qualcosa va male, molte volte solo per rimediare. E anche se sei incazzato, ma non te a spacciare, ritorni a casa fumato. Uomo basta, butta quella polvere bianca, guardali dritto negli occhi e mettili tutti in gabbia. E se c'è bisogno compra un'arma, puntagliela alla tempia e fagli vedere chi comanda. E non ha importanza come riuscirai a fuggire, io ti conosco fra e non ti ho mai visto fuggire. Questi sono sciacalli, sembrano amici ma sono dei serpenti, ti riempono di abbracci e di falsi complimenti, e poi ti rubano l'anima e tutti i chiarimenti. Sciacalli, spesso sono furbi, non sono come quelli, si fanno gli amici solo perché offrono dei contatti, ma ti strappano il cuore e stanno sempre attenti agli altri. Uomo, sto vedendo la disperazione nei tuoi occhi, sto vedendo che hai mentito a tutti solo per andare con quei finocchi. I sciacalli, persone che come te che sognano di fare soldi, tu cantando quello che pensi loro a sommare morti. Sono in un sogno, ma non posso fuggire. Sono rinchiuso qua e mi tocca lottare. Spero che prima o poi potrò anch'io salire. Per il momento resto qui a lottare. Siamo dentro una realtà che non conosciamo, siamo dentro nella vita che disprezziamo, con morti, guerre, tutto questo che facciamo non serve a niente. Chi mente sono quelli che non ti danno un supporto, se fosse per loro a quest'ora sarei già morto. Non mi serve un'erba per sognare, dammi una penna, un microfono per cantare, ti farò vedere le stelle. Le mie rime devastano molto più delle guerre, non mi serve uno psicologo per dimmi ciò che sto vivendo. Io non penso ad altro che la strada che sto percorrendo, solo queste rime mi fanno pensare cosa c'è al di là del quartiere, al di là della strada. Questo sogno mi ha mangiato vivo, a man mano che salgo rimo, il mio destino è già stato scritto. Mi spaccherò il culo finché non cadrò a picco. Io sono in un sogno, ma non posso fuggire. Sono rinchiuso qua e mi tocca lottare. Spero che prima o poi potrò anch'io salire. Per il momento resto qui, resto qui a lottare. Amico, sì lo so che stiamo dormendo, amico, sì lo so che stiamo vivendo una realtà che non conosciamo, una realtà che ci spinge a fare ciò in cui crediamo. Ecco perché vivo alla giornata, ecco perché penso solo a fare grana. E mamma, dammi qualcosa da mangiare, stasera non dormirò a casa, starò in strada a spacciare. Perché per fare soldi fare qualsiasi cosa, per fare cash vado in strada a vendere droga. E sono stanco di tutti questi poliziotti, di questi ladri, assassini e politici corrotti. Io non vedo l'ora di andare via, amico, sì lo so che è una follia. Spero che prima o poi volerò, non mi servono gadget speciali alla James Bond. E anche se questa cazzo di società mi ha ferito, io rimarrò attaccato alla Calabria come un soldato stecchito. Il cash è il mio obiettivo, se non ce la farò metterò punto sul mio destino. E la musica è diventata la mia fidanzata, la musica quella che non va mai abbandonata. È la musica che mi dà ragione di esistere, se no questa sarei un cazzo di emo solo e triste. Io sono in un sogno, ma non posso fuggire. Sono rinchiuso qua e mi tocca lottare. Spero che prima o poi potrò anch'io salire. Per il momento resto qui a lottare. Na radio Roma. Un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Roma.